Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchiesi, Italia in controluce, il programma che narra la cronaca italiana, le piccole e le grandi storie, la nera, le inchieste, ma anche gli eventi, le eccellenze delle città. Per sconfiggere le mafie non servono solo doti investigative, leggi adeguate, confische di beni. Anche un libro può servire a comprendere l'evoluzione delle cosche. Simone Spezia ha intervistato Andrea Pamparana, giornalista, autore di Mala Carne, un volume dedicato alla mafia più forte del mondo, cioè all'Andrangheta. Carmine tratta gli affari con i colombiani. Dalla Calabria viaggia verso il Sud America, si inoltra nella foresta, incontra gli uomini delle FARC, valuta la qualità della droga, concorda il pagamento. La storia che racconta Andrea Pamparana nel suo libro Mala Carne, edito da Marco Tropea, parte da qua con uno stile a metà tra il romanzo, del quale ha il passo, e la docufiction televisiva, della quale ha lo stile di racconto. La realtà è che è una bella inchiesta giornalistica che dai 250 kg di coca pura acquistati da Carmine ci porta a scoprire in che modo, con quali tecniche, con quale organizzazione, l'Andrangheta sia diventata una delle mafie più potenti del mondo, se non la più potente. Una organizzazione, come dice l'FBI, fra le cinque più potenti a livello di criminalità organizzata nel mondo. Gli americani considerano l'Andrangheta quasi a livello di Al-Qaeda, con una capacità organizzativa non indifferente, che ha dimostrato in questi anni di essere attendibile, solvibile, ben organizzata e quindi appetita da altre organizzazioni criminali, come ad esempio i colombiani e i messicani, che del traffico di cocaina sono i protagonisti in quanto la producono. L'Andrangheta non ha il fenomeno del pentitismo come Cosa Nostra, o perlomeno ce l'ha, ma in misura assolutamente ridotta e con pentiti anche di non eccelsa importanza. Quindi è più attendibile, è più sicuro fare affari con i calabresi. Non è un caso che il libro segua insistentemente le tracce della droga. Pamparana cita dati del 2004, quell'anno per l'organizzazione criminale calabrese la cocaina fu un affare da 22 miliardi di euro contro i 2 del traffico di armi, 4 dell'usura e 5 della prostituzione. E ancora, un chilo di cocaina purissima viene comprato da quelli che possiamo definire i grossisti a 5.000 dollari, da ogni chilo tagliandola se ne ricavano circa 4. Ciascuno nella vendita al dettaglio può arrivare a 50.000 dollari. Per chiudere l'equazione, con un investimento di 5.000 dollari se ne ricavano almeno 200.000. Non c'è nulla che renda così tanto. Intorno alla droga si dipanano dunque le altre storie raccontate nel libro, da quella di Matteo, anche lui calabrese, incaricato una volta che la coca arriva a San Paolo del Brasile di farla partire via nave per l'Africa, a Nino che l'aspetta in Guinea, dal banchiere, l'uomo che per l'Andrangheta si occupa di riciclare il denaro sporco proveniente dal traffico di polvere bianca, al colonnello, l'ufficiale dei gruppi operativi antidroga, che indaga e che cerca di mettere le mani sugli uomini che compongono una rete internazionale e transcontinentale. L'Andrangheta è anche in Germania, se ne sono accorti i tedeschi dopo Duisburg, ma è anche in Canada, ci sono stati arresti importanti negli ultimi anni ed è anche, ormai ne sono sempre più certi gli investigatori, soprattutto il Dipartimento, la Direzione Centrale dei Servizi Antidroga, che è quella che più mi ha aiutato in questo reportage, sta al Tuscolano a Roma, e che mi diceva il direttore operativo, in questo momento è l'Australia, non più tanto terra di conquista, che è stata conquistata da tanti anni, da famiglie che sono immigrate nel corso degli anni 60 e 70. C'è un bellissimo rapporto sulla presenza dell'Andrangheta in Australia di Niccolò Calipari, nostro agente ucciso durante la liberazione della collega Sgrena del Manifesto. Ne ho ampiamente citato alcune parti, un libro interessante che è stato curato dalla moglie, dalla signora Calipari, ed è importante perché ci fa capire come questa organizzazione sia davvero ramificata a livello internazionale. Italia in controluce. Ieri a Milano è stato presentato il Master Plan, il progetto definitivo dell'area dell'Expo 2015. Oggi Italia in controluce prosegue la sua inchiesta sulla preparazione di questo grande evento epocale, affrontando temi forti come i settori della moda e dello sport. Il racconto di Massimo Di Scienza. Non c'è posto al mondo dove il nome Milano non evochi quelli di Maldini o Dolce & Gabbana, di Valentino o Mourinho. Potere e fascino della storia, dei soldi e dei media. Nel globo Milano equivale al binomio sport e moda, all'asse stile e pallone. Ma allora, come si avvicinano due, chiamiamole così, eccellenze milanesi all'Expo 2015? Partiamo dallo sport, che brinda i successi di Inter e Milan da anni ai vertici del calcio e dell'Armani Jeans Basket, lo scorso anno finalista del campionato. Ma per Franco Arturi, vice direttore della Gazzetta dello Sport, dietro questa vetrina affascinante lo stato di salute dello sport milanese non è affatto brillante. Al di là delle tre grandi realtà calcistiche e cestistiche, il resto dello sport, che poi è un arcipelago vastissimo, soffre di una profonda crisi e non da ora. Nell'area di Milano, e questo si riferisce anche a un discorso più generale degli stili di vita del nostro paese e di quello che è l'apporto allo sport delle aree metropolitane piuttosto che non quelle di provincia, che sembrano le reali protagoniste di questo discorso nel nostro paese. Lo sport di base si sente dimenticato e l'Expo rischia di non risolverne i problemi. Antonio Iannetta, presidente dell'UISP, l'Unione Sport per Tutti. Immaginare la città come un laboratorio non solo per quanto riguarda l'edilizia connessa o le argomentazioni, perché l'Expo è nutrire il pianeta, energia per la vita, quindi ha ben evidente il suo ruolo in termini di iniziativa sulla città, però è anche vero che queste opportunità servono anche a ridare vitalità ad altre situazioni. Quella sportiva, a nostro avviso, è un'emergenza. A fine marzo Comune, Provincia, Expo e CONI hanno firmato un accordo per riqualificare vecchi impianti e creare nuove realtà. Primi stanziamenti 2 milioni per la ristrutturazione del centro 25 aprile. Difficile dire se la cura basterà. Al momento quella che sembra mancare è un'idea forte. Iannetta lancia la sua proposta. Bisognerebbe calare sulla città una grande rete, in modo tale da mettere in connessione parchi, aree verdi, impianti sportivi e fare in modo che tra un nodo e l'altro ci sia un collegamento, magari sfruttando l'idea della ciclabilità. Se sport e istituzioni si sono quantomeno seduti al tavolo e qualche soldo è stato promesso, il mondo della moda a 4 anni dall'avvio dell'Expo sembra ancora distratto. Un settore da 12.000 imprese e 4 miliardi e mezzo di fatturato non ha ancora stabilito se e come rapportarsi all'evento. Una delle idee forti legate all'Expo, la città della moda, il quartiere dedicato allo stile, all'interno dell'area di Porta Nuova Garibaldi, non vedrà mai la luce. La crisi ha tarpato le ali al progetto tra l'indifferenza del settore. Per Paola Bottelli, inviata del Sole 24 Ore, l'attenzione del comparto moda nei confronti dell'Expo è pari a zero. Anche parlando un po' con stilisti o capi delle aziende, non mi sembra che nessuno se ne stia occupando, però è evidente che i nostri stilisti hanno una visibilità mediatica incredibile in giro per il mondo. Penso che sia arrivato il momento in cui la mettano anche a disposizione della città. Eppure i benefici per l'Expo 2015 e per la moda milanese sarebbero reciproci. A guadagnarci sia i grandi nomi sia le firme emergenti. Antonio Boselli, presidente della Camera Italiana della Moda. Evidentemente i grandi sono quelli che possono giocare la partita nel mondo a tutto tondo, essendo in tutti i mercati internazionali. Quando invece i buyer vengono per l'Expo, hanno la possibilità di accedere, di comprare anche a quelle aziende che fanno un buon prodotto ma che non hanno la dimensione e la potenza di fuoco per andare sui mercati internazionali, per vendere ai clienti internazionali che vengono loro da noi. Urge invertire la rotta, anche qui con un'idea vincente. Paola Bottelli si affiderebbe ad un grande evento, un'operazione di immagine ma anche di sostanza. Penso soltanto a una cosa che naturalmente è difficile da fare. Io mi posso immaginare, non so, una sfilata dove contemporaneamente in un grande spazio aperto al pubblico, che potrebbe essere Piazza Duomo o comunque la Fiera di Rho, una sfilata appunto dove possano essere contemporaneamente in passerella, ognuno con il suo spazio, i grandi nomi, da Armani a Prada, da Dolce & Gabbana a Gucci. Non resta che sperare in un salvataggio quasi in extremis. Io sono molto fiducioso sullo spirito dell'italianità, che è quello magari di essere poco organizzato ma molto reattivo, e quindi credo che noi saremo in grado in questi anni di recuperare questo anno che non è stato dei più felici. Dunque il sano stellone italiano evocato da Boselli. Basterà a recuperare il tempo perduto? Era la seconda edizione di Italia in Conto Luce. L'archivio delle puntate lo trovate sul nostro sito www.radio24.it. Per comunicare con noi, Radio 24 Italia in Conto Luce è il nostro gruppo su Facebook. La mail contoluce@radio24.it. Domani alle 6.30 su Radio 24 una nuova edizione di Italia in Conto Luce.